con Daniele del Forum per la tutela del parco di Aguzzano per presentare appunto il forum. Daniele, ben trovato. Ci racconti? Ci occupiamo del parco di Aguzzano, dove la Giunta 5 Stelle del quarto municipio ha deciso di cercare di aprire una pizzeria. Una pizzeria proprio in una riserva naturale, in un casale storico, censito, senza sentire né il parere dell'ente gestore del parco, della natura, e nemmeno la regione, perché poi di fatto il parco è regionale. Per contrastare quindi questa iniziativa di pizzeria abbiamo costituito un forum, appunto il forum per la tutela del parco di Aguzzano, che comprende diverse realtà del quartiere tra, diciamo, tra Velibia e Casal dei Pazzi, e quindi fa parte il Casale Alba 2, il comitato di quartiere Mammut, l'associazione sportiva Mammut, il centro La Torre, il centro sociale La Torre, l'associazione Corpi Pazzi, nonché il centro anziani di Rebiglia. E appunto siamo diverse realtà che ci muovono per dire di no a questo ennesimo tentativo di speculare in questo quartiere e soprattutto ai danni del verde pubblico. Il forum vuole anche non solo, diciamo, opporsi alla pizzeria, ma anche cercare di far nascere un'alternativa, un progetto dal basso che possa rappresentare un'alternativa rispetto alla pizzeria. E perciò è già diverso tempo, più di un mese che ci riuniamo cercando di capire quale potrebbe essere un'altra destinazione per questo casale, che prevede una destinazione tra l'altro dal piano d'assetto socioculturale, quindi la pizzeria, diciamo, non ci accrocchia molto. E la nostra proposta invece è quella di realizzare un polo museale culturale che possa valorizzare veramente il casale, che è appunto un edificio storico del quartiere che risale agli inizi del Novecento. Daniele, il parco di Aguzzano che area comprende e che storia ha? Il parco di Aguzzano ha una storia molto, diciamo, molto bella e molto particolare. Sono circa 60 ettari di parco che si affaccia sul quartiere Casal dei Pazzi, su Rebibbia e dall'altro lato invece su San Basilio. È un piccolo polmone verde in mezzo alla città che rappresenta anche una delle poche aree a Roma rimaste di quello che era l'area romana un tempo. Nasce come parco regionale nell'89 proprio a seguito di una mobilitazione di tutti gli abitanti del quartiere che uniti si sono opposti a un primo tentativo di speculare proprio all'interno del parco. Tutta l'area che oggi comprende questo parco, che è una riserva naturale, era stata oggetto appunto di una speculazione e doveva essere tutta lottizzata. Se non che appunto l'intervento degli abitanti ha impedito che venisse cementificato e si è riusciti nell'89 ad avere un parco pubblico. Questa è un po' la storia. E la storia che poi si ripete perché oggi ci ritroviamo di nuovo a dover fronteggiare un ennesimo tentativo di speculazione, avendo tra l'altro un parco Montino, Santa Cecilia, il Parco Colle, che è stato investito dalla tragedia dei punti verde qualità, che insomma chi vive a Roma conosce bene il danno che hanno arrecato alle aree verdi. C'è un'assemblea che si riunisce con regolarità per questo forum? Allora sì, tutti i mercoledì noi ci vediamo, di solito al Casale Alba 2 alle 6:30, quindi tutti i mercoledì alle 6:30, e in particolare il 1º marzo invece c'è una grande assemblea pubblica, invitiamo tutte quante le realtà di quartiere, tutti gli abitanti di quartiere, per ragionare insieme a noi su quale possibile idea potrebbe rilanciare il Casale Alba 1. E quindi di discutere insieme a noi della proposta di realizzare un polo museale. In particolare a Rebibbia abbiamo già il Museo del Mammut, famoso anche perché chiaro che Alcari lo ha fatto uno dei suoi personaggi, non Mammut di Rebibbia, il quale è in difficoltà perché possiede numerosi reperti archeologici trovati proprio su questo territorio e non ha abbastanza spazio per esporli, per cui buona parte di questi reperti sono praticamente un archivio e quindi sarebbe bello magari trovare un nuovo spazio anche per questi reperti. Ecco, vorremmo che realizzasse proprio nel casale Albano. Ecco, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Allora sì, diciamo, sicuramente potete trovare tutto sulla pagina Facebook del casale, quindi Casale Alba 2, un indirizzo mail per chi vuole sapere di più, per chi si interessa appunto alle riunioni di questo forum, forum per la tutela di Aguzzano, @gmail.com. Quindi invito tutti a prendere visione sul sito del Casale Alba 2, sulla pagina Facebook. E poi invito tutti il 1° marzo alle 6 alla Biblioteca Giovenale, dove ci sarà questa grande assemblea pubblica per immaginare il futuro del Casale Alba 1. Ricordiamo allora il forum per la tutela del parco di Aguzzano, un saluto e un ringraziamento a Daniele. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti e a tutti. Un abbraccio.